giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Se davvero sono tornate le Brigate Rosse, allora è proprio una follia. Così raccontava la postina delle BR durante il sequestro Moro Adriana Faranda. Dettava queste poche righe poco dopo l'uccisione del consulente del Ministero del Lavoro Massimo D'Antona, 20 maggio 1999. Lei non sapeva che quell'omicidio rappresentava l'inizio di una nuova era brigatista. Quasi tre anni dopo, il 19 marzo del 2002, il giuslavorista Marco Biagi sarebbe stato colpito dallo stesso gruppo. Due assassini legati da un filo comune, politico e simbolico: attaccare le riforme, attaccare i riformisti. Le ultime e più aggiornate indagini offrono l'esatto identikit dei nuovi brigatisti. Sono le piste investigative partite poco dopo la sparatoria sul treno Roma-Firenze, in cui persero la vita il poliziotto Emanuele Petri e il brigatista Mario Galesi. Ma la storia dei nuovi brigatisti non è stata ancora scritta del tutto. Occorre dunque compiere un passo indietro. E allora ripartiamo da quel 16 marzo del 78, il rapimento di Aldo Moro, l'uccisione dei cinque uomini della sua scorta. Solo dall'evoluzione delle vecchie BR si può oggi sperare di comprendere il presente. Nella storia delle Brigate Rosse, il rapimento Moro rappresenta insieme l'apice e l'inizio del declino. Con l'arresto di Mario Moretti nell'aprile dell'81, la spinta centrifuga dentro il gruppo si fa inarrestabile. La prima a staccarsi è la colonna milanese Walter Alasia, di Pasqua Aurora Betti e Vittorio Alfieri. Nel novembre 1980 uccidono i dirigenti Manfredo Mazzanti dell'Alfa Romeo e Renato Briano della Marelli. Ma la vera rottura si consuma con la fondazione del Partito Guerriglia di Giovanni Senzani, che organizza in proprio i sequestri Cirillo e Urso e il rapimento e l'uccisione di Roberto Peci. Nell'ottobre dell'81, dopo la divisione con le BR Partito Guerriglia, in una riunione della direzione strategica a Padova, si modifica la sigla in Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combattente. Guidano il gruppo Barbara Balzerani e Antonio Savasta. Dalla colonna veneta delle BR si stacca la colonna 2 agosto, smantellata dopo la liberazione del generale americano James Lee Dozier, il 28 gennaio 1982. Le BR PCC propongono la ritirata strategica. Nel maggio 1984 formano l'Unione dei Comunisti Combattenti. In questo quadro le varie sigle rivendicano i ferimenti di Gino Giugni e Antonio Da Empoli, gli omicidi di Ezio Tarantelli, Lando Conti, Lemon Hunt, Licio Giorgeri. Nel frattempo, molti militanti incarcerati dalle BR e PCC dichiarano chiusa l'esperienza. La decisione non viene però condivisa da quanti sono ancora clandestini e irregolari. Il 16 aprile 1988 uccidono il senatore DC Roberto Ruffilli. Nel mirino delle Brigate Rosse degli anni 90 ci sono uomini di cerniera, consulenti dello Stato, esperti di riforme del mercato del lavoro. Dopo l'omicidio di Roberto Ruffilli, lo Stato si riorganizza. Smantella il gruppo tosco-laziale delle BRPCC guidato da Fabio Ravalli, Maria Cappello e dall'armiere della banda Antonio De Luca, arrestato a pochi metri dall'abitazione dell'allora presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita. I nuclei comunisti combattenti collocano un ordigno presso la sede della Confindustria a Roma. Il 3 settembre 1993 le BR colpiscono la caserma NATO di Aviano. I nuclei territoriali antiimperialisti compiono la loro prima azione a Spilimbergo, Pordenone. La NATO entra nel mirino anche dei nuclei comunisti combattenti con l'attentato contro il NATO Defense College. NCC e NTA operano a saldatura con le BR PCC. È il 20 maggio 1999, via Salaria, Roma. Un comando di due brigatisti uccide il professor Massimo D'Antona, consulente dell'allora ministro del lavoro Antonio Bassolino. Un anno dopo, il 16 maggio 2000, i nuclei di iniziativa proletaria rivoluzionaria fanno esplodere un ordigno presso la sede della Commissione Studio e Vigilanza della normativa antiscioperi. Il mese dopo il nucleo proletario rivoluzionario colloca un ordigno sul davanzale della sede della CISL di Milano. Il sindacato lavora al patto per Milano. Nella rivendicazione gli NPR fanno riferimento al professor Marco Biagi, impegnato nella stesura del patto. I NIPR attaccano la sede dell'Istituto Affari Internazionali con un ordigno di elevata potenza. La saldatura è compiuta. Passa un anno. Il 19 marzo 2002 Marco Biagi, consulente del ministro del welfare Roberto Maroni, viene ucciso sotto la sua abitazione di via Valdonica a Bologna. Il giorno successivo arriva la rivendicazione, firmata Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combattente. La prova della ricostruzione delle BRPCC giunge poco dopo. Gli irriducibili rivendicano dalle carceri gli attentati di Massimo D'Antona e Marco Biagi. Il 31 ottobre del 2002 il GIP di Roma Maria Covatta firma 6 ordinanze di custodia cautelare, tra queste quelle di Mario Galesi e Nadia Desdemona Liuce. Per Covatta hanno scritto la rivendicazione dell'omicidio D'Antona. I due saranno fermati dalla Polfer il 2 marzo del 2003 sull'interregionale 2304 tra Roma e Firenze. A luogo una colluttazione, vengono sparati alcuni colpi. I poliziotti Emanuele Pete e Mario Galesi perdono la vita. La Lioce verrà arrestata. Dal 23 ottobre 2002 inizia la cronologia degli arresti. Tra Lazio, Toscana e Sardegna vengono fermati Paolo Broccatelli, Marco Mezzasalma, Alessandro Costa, Roberto Morandi, Cinzia Banelli, Francesca Saraceni, Bruno Di Giovanangelo, Simone Boccaccini, Laura Proietti. Tutti, tranne Costa e Di Giovanangelo, saranno indiziati per gli omicidi d'Antona e Biagi. Il 22 dicembre viene arrestata Diana Blefari Melazzi, affittuaria del covo brigatista di via Montecuccoli. Qui vengono rinvenuti importanti collegamenti tra i militanti dell'organizzazione e documenti inerenti alla rivendicazione degli omicidi d'Antona e Biagi. Ad oggi le tre procure, Roma, Firenze e Bologna, lavorano sull'ipotesi che lo stesso gruppo di brigatisti abbia firmato entrambi gli attentati. Sentiamo Giovanni Bianconi, giornalista del Corriere della Sera. Pello, Lavalli e altri irriducibili hanno continuato a produrre documenti che continuavano a ipotizzare come possibile la lotta armata in questo paese, anche nella fase di cosiddetta ritirata strategica come è stata quella di 11 anni senza attentati. E a maggior ragione è stato importante il loro ruolo nel momento in cui, dopo l'omicidio di Antonio, loro rivendicandolo a nome delle Brigate Rosse hanno in qualche maniera consacrato, diciamo così, il marchio brigatista nella nuova fase. Ma la frattura c'è nel momento in cui nell'88-89 vengono arrestati quasi tutti, diciamo così, i brigatisti noti o non noti ma scoperti che c'erano in circolazione, dopodiché per 11 anni, a parte i comunicati e i proclami di un manipolo di irriducibili dal carcere, per 10-11 anni si sostiene che sostanzialmente la guerra è finita, anche da parte di chi non si è né dissociato né pentito, ma ha rivendicato la propria attività, ma poi ha ritenuto di non poterla più portare avanti, insomma. A livello simbolico, la prova più evidente del passaggio del testimone resta la rivendicazione da parte di Nadia Desdemona Liuce, Roberto Morandi, Simone Boccaccini, dello status di prigioniero politico. Il procuratore aggiunto di Firenze, Francesco Florì, mette in evidenza continuità ideologiche e differenze tra vecchi e nuovi militanti brigatisti. Questi nuovi brigatisti effettivamente erano personaggi che non erano stati mai coinvolti nelle indagini sulle vecchie Brigate Rosse. Erano stati qualche volta sfiorati da qualche indagine come appartenenti a frange di estrema sinistra, né d'altronde abbiamo trovato nei documenti sequestrati e negli atti prove di rapporti tra i vecchi brigatisti e questa nuova struttura, anche se ideologicamente naturalmente la nuova struttura si rifà alla elaborazione politica delle vecchie Brigate Rosse. Le varie sigle sono inesistenti, nel senso che alcuni attentati compiuti da sigle come INIPR sono degli attentati compiuti dagli stessi brigatisti che li hanno rivendicati con un'altra sigla, mentre l'unica organizzazione effettiva esistente che abbia fatto una proposta di, se non di entrare nelle Brigate Rosse, di dichiarazione di accettazione della proposta politica di lotta armata delle Brigate Rosse, sono gli NTA, i nuclei territoriali antiimperialisti che operano nel Veneto. Ecco, la cosa singolare è che queste nuove Brigate Rosse erano radicate soprattutto, anzi esclusivamente, in Toscana e nel Lazio, mentre come sapete, l'origine delle brigate rosse, delle vecchie brigate rosse, è nel triangolo industriale. Le brigate rosse agiscono con il supporto ideologico e forse operativo di un pugno di latitanti riparati all'estero. Simonetta Giorgeri, Carla Vendetti, Guido Minone, Enzo Calvitti, Marcello Tamaro dell'ONU. Sentiamo Vincenzo Tessandoni, giornalista della Stampa e scrittore. Ci sono dei latitanti che possono essere entrati nell'organizzazione come erano entrati Lioce e Galesi. Questi erano latitanti, ma erano stati ampiamente guardati contro luce dai nostri servizi di intelligence e li avevano anche lasciati andare. Parlo delle perquisizioni fatte a Morandi, fatte a Lioce dopo l'omicidio di Lando Conti, tanto per dare un riferimento temporale. Loro hanno preso il marchio, come si può prendere il marchio, un marchio di successo in campo industriale, lo hanno rivitalizzato, diciamo così, e hanno fatto una scopiazzatura di quella che era la vecchia organizzazione. Cioè io credo che ci sia un esempio pessimo che viene proprio dai politici su una guerriglia che non è soltanto un confronto politico, ma è proprio una vera e propria forma di lotta armata con armi diverse che questi nostri politici danno quotidianamente, e in queste fratture, in queste spezzature si inserisce ovviamente il terrorista, chiamiamolo così. Cioè questi erano scarti, chiamiamoli così, delle vecchie organizzazioni, quelle che hanno fatto veramente preoccupare per la stabilità dello Stato democratico. I nuovi brigatisti hanno potuto riorganizzarsi in silenzio, utilizzando vecchi strumenti riadattati alle trasformazioni in atto nella società moderna. La classe dirigente e buona parte dell'opinione pubblica hanno creduto nella sconfitta finale delle BR, e invece errori d'analisi e sottovalutazione del fenomeno hanno prodotto i nuovi brigatisti, il cui numero risulterebbe ben più ampio di quello accertato dalle ultime indagini. È probabile dunque che alcuni irregolari dopo gli arresti di ottobre e dicembre del 2003 siano oggi diventati clandestini in fuga. Vi saluta Daniele Biacchessi, i testi e le interviste di Marcello Vinonuovo e Beatrice Nenca.